140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi di spettacoli questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il mio account @MartaCagnola o con l'hashtag cancelletto 140 caratteri. Come ogni settimana, mano a mano ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Cinema Anteo, Milano. In cielo, solo posti scomodi per i padri separati. Posti in piedi in paradiso, l'ultimo Verdone che dice: adesso voglio godermi vita e lavoro. Sì, un po' è così. Che ti devo dire? Dipende dall'età che avanza. No, riesco a vedere le cose chiaramente anche con preoccupazione, però forse anche con più saggezza, con più ponderatezza. Riesco anche a raccontarle con una certa lucidità e spero, mi auguro, con più maturità. Non mi interessa più la performance personale per dimostrare che cosa. Mi interessa di entrare in maniera giusta nel film, di dare un contributo importantissimo al film, però anche di mandare avanti degli attori che in questo momento possono fare meglio di me alcune cose. Però io mi ritaglio sempre delle cose importanti, più raffinate, ma questo fa parte dell'evoluzione naturale di un attore. E come sempre osservare, fare un po' di sociologia anche attraverso i film, la realtà che ti sei trovato davanti questa volta è una realtà difficile. Ma sai, il compito della commedia è quello di registrare l'evoluzione del costume, del linguaggio, della società che cambia. La commedia ha questo, ha questo incarico. Poi, se vogliamo una commedia di intrattenimento, allora volerà bassa, ma come entri dal cinema, così esci dal cinema, come sei entrato. Se la commedia vuoi che ti lasci qualcosa, la devi far bene, innanzitutto, che non è che è sempre detto che viene bene. Devi partire con buoni propositi, non devi aver paura di affrontare dei temi anche ostici, anche complessi, anche complicati, anche duri, perché la commedia si trova a suo agio, secondo me, anche in temi complicati. Ci vuole un grande equilibrio nella scrittura, ci vuole un bel talento, ci vuole una buona regia, ci vogliono soprattutto bravi attori. Se tutto funziona, la commedia diventa importante. E se tutto funziona, la commedia sa descrivere quello che è il momento di un paese. Insomma, io ho fatto il conto, sono 23 film, hai raccontato 23 Italie. Questa volta è stato più difficile? Questa volta è stato più difficile, è stato difficile la concentrazione per avere un grande senso dell'equilibrio, perché io sapevo che il tema non era da commedia, però dovevo farlo entrare in commedia, quindi con molta delicatezza e molto equilibrio io ho cercato dove potevo far ridere, dove non dovevo far ridere non ho fatto ridere, ho cercato anzi di far riflettere molto bene, di dare qualche emozione se mi permetti anche di mandare qualche piccolo messaggio occulto, che poi è un messaggio rivolto alle nuove generazioni, affinché insomma le dobbiamo aiutare, perché alla fine questi ragazzi sono molto determinati e vogliosi di un cambiamento anche etico, anche in un momento poi in cui il futuro per loro è assai complesso. Quindi io tifo assolutamente per loro e credo che si capisca proprio in maniera lampante alla fine del film. C'è anche un aspetto molto particolare, è molto importante, quello della musica. Lì però c'è un affetto nei confronti delle vecchie generazioni, Carlo. No, io ascolto anche della musica oggi. Ci sono delle cose interessanti oggi che te devi andare a cercare sul web. Oggi trovi tutto molto commerciale, però un cultore sa dove inserirsi per cercare qualcosa di interessante. E c'è. Certo, non è un periodo di grandi ideali, quindi automaticamente non ti puoi aspettare una grandissima musica, però ti dico, qualche autore interessante c'è. Come? È chiaro, c'è un discorso al nostalgico, perché io ho un negozio di vinili, quindi non potevo non mettere una musica musica di sottofondo che non appartenesse a un periodo 60, ecco, o 70, è ovvio. Carlo, un'ultima cosa, ti sei cimentato in un'autobiografia, perché? Cos'è un bilancio? Così lo chiariamo subito le cose, non è un'autobiografia. Se fosse un'autobiografia io sarei un grande presuntuoso. Quella non è un'autobiografia, quella è la storia di un appartamento, è la storia della mia famiglia, sì, dove io sono un po' attore ma sono anche spettatore, quindi chiamarla autobiografia è un errore clamoroso. Basta leggere il libro, si capisce. Io ho raccontato stanza per stanza una casa che per 80 anni ha visto due famiglie, prima la famiglia di mia madre e poi quella che sarebbe diventata la mia famiglia, cioè la famiglia di mio padre che andò a vivere dopo il matrimonio da loro. Ecco, ho raccontato tutto quello che è accaduto, che ricordo, in quelle tante stanze di quella casa poetica, bella, che è stata la casa sopra i portici. Questo è il titolo del libro edito da Bompiani. Tu hai dimenticato che io sono un artista, non una che resta a pulire a fare figli. Quanto sei squallido, mi tradisci con la moglie del tuo capo. Io ci avrei una moglie e due figli. E tu mi dici questo dopo un anno e mezzo. Ammazza, già è passato un anno e mezzo, Parì. 250 euro tu, 250 euro tu e 250 euro io. Scusi, ma come si può pretendere che delle persone che non si conoscono vadano a vivere insieme? Signora, ma che mi chiude l'acqua alle 9 e mezzo di mattina? Il punto forte di questa casa è che è silenziosa. Addio. Ma che? Che? Niente, la metropolitana. Sono la cardiologa. Ah, prego. Ora controlliamo. Forse come cuffie meglio queste, che dice? Ho messo quelle della musica. Io ero un critico stimato, poi sono stato retrocesso alla cronaca rosa. Chi se l'è rifatta, chi se l'è fatta. Ma io dico, sto tutto il giorno a lavorare. Ah, Fulvio, sto tutto il giorno a lavorare. Ma che generazione è? Bella questa cintura, me la fai provare? No, questo cinturone è appartenuto al grande Jim Morrison. Quello dei Queen? Quello dei Doors. Papà, sono incinta. Ma questa è una tragedia. Per favore, papà, non ti arrabbiare. Ma che papà non può venire in uno dei giorni più belli della tua vita? No, non può venire. Mi devi spiegare perché, Francesco? Perché io mi vergogno di te. Micaela Ramazzotti, sei una donna sorridente e quindi è difficile capire quando sei veramente soddisfatta di qualcosa. Però in questo caso mi sembri veramente felice di questo film. Tu immagini, essendo io romana, nata e vissuta a Roma, tifosa della Roma, tu immagini cosa significa per me Carlo Verdone. Ti dico solo questo. Cioè l'eroe che unisce grandi e piccini, fricchettoni e coatti, intellettuali in fingardi, è lui l'eroe del cinema comico. Cioè per me è un mito come attore ed è stata una sorpresa come regista, perché è un grandissimo direttore di attori, fenomenale, regista più buono, più generoso col quale ho lavorato. Hai detto che ti sei sentita cullata, ti sei lasciata trasportare completamente. Sì, proprio mi sono sentita nel salotto di casa Verdone, capito? Proprio strumento in mano a lui per diventare la cardiologa psicolabile. È stato fantastico. Un ruolo molto bello di donna, perché è un ruolo con un sacco di sfumature. Bello perché nonostante lei sia matta, frivola, ma alla fine è saggia e buona, e sono felice che abbia pensato a me. Vuol dire che anche se forse mi vede un po' così, perché dice che me l'ha scritto su misura, però mi fa piacere che alla fine sono saggia, no? Speriamo. E com'è stata l'esperienza sul set con lui? Perché hai detto è stato anche molto divertente. Io stavo sempre a ridere dalla mattina alla sera, come arrivavo al trucco ridevo, andavo via e ridevo, entravo in macchina e continuavo a ridere, perché Carlo quando recitarci accanto, quindi quando senti motore partito, sac, azione, parte Carlo e te lo vedi in diretta, capito? E sei lì, ogni tanto qualche risata, qualche ciak l'ho dovuto interrompere perché mi sono scoppiata a ridere in faccia, soprattutto quando mi mangia il biscottino, che fa così, sai le facce di Carlo, no? E ho detto, sono scoppiata proprio. Però è un tema, è un film che ha un tema molto difficile, la commedia che riesce a raccontare dei tempi molto difficili, tu come li vedi, Micaela? È la commedia appunto che ancora una volta racconta il dramma, il tragico dei nostri tempi. Loro, sia uomini che donne, sono vittime in qualche modo di questo periodo, di un periodo che è attraversato da una grande aggressività, di una violenza. E solo Carlo in qualche modo riesce nei suoi film, nei precedenti, ma in questo soprattutto, a raccontarlo con ironia, quindi comicità e quel pizzico di ferocia che serve per rappresentarlo, no? E quindi insomma bisogna superare questo momento. Adesso che cosa hai in mente, oltre a goderti questo film? Ma guarda, io adesso sto girando una... non la chiamerei fiction televisiva perché è un evento proprio televisivo, perché è un film in più parti, perché un film di 6-7 ore non si poteva fare, di Pupi Avati. Di nuovo il mio ritorno con Pupi dopo Il cuore grande delle ragazze. Qui parliamo di un matrimonio che dura da più di 50 anni. Quindi il titolo sarà Un matrimonio, la storia di amore di questi due ragazzi che si incontrano a 18 anni e questi due ragazzi riescono a superare anche le nozze d'oro, arrivare a 50 anni di matrimonio, quindi 50 anni d'Italia, dal 1948 al 2000. Quindi tu devi essere 50 anni di donna? Sì, io parto da 18 e arrivo a 70. Coraggioso? Sì, molto, ma Pupi Avati è il mio maestro. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. La musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Il suo CD è In alto, perché è da lì che si vede meglio la vita. E lui ha vissuto 4 volte. Una leggenda, Claudio Rocchi. C'è la migliore delle prospettive possibili, perché come ben sappiamo e sapete, dall'alto si ha una visione più chiara, si ha l'ampiezza del campo e quando c'è la consapevolezza del campo è più semplice valutare le varie dinamiche. E infatti tu guardi giù, perché si parla della realtà anche della realtà di oggi nei testi. Sì, assolutamente. Ci sono le stelle, perché i cieli alti, che poi sono metafore per le profondità della coscienza, sono sempre stati luoghi dedicati della mia ricerca, della mia passione. Io ho studiato filosofia all'università, mi sono presto innamorato delle filosofie orientali, ho fatto il monaco induista per 15 anni, ho preso i voti e sono uscito dal mondo, ho sperimentato con intento conoscitivo parecchie negli anni in cui era doveroso fare queste esperienze, le sostanze psicotrope in termini conoscitivi e non ludici, nel senso che, come in tutte le grandi tradizioni, dal paganesimo originale ai misteri orfici occidentali, alle pratiche tantriche, shivaite, taoiste, shintoiste, sciamaniche che attraversano il pianeta, da sempre l'uomo si interroga su chi sono, da dove vengo, dove vado. Più recentemente questa domanda per me ha preso la curiosità di cercare di capire che ne facciamo del 98% dell'area cerebrale inutilizzata, no? Ammesso che lì abiti la coscienza e quindi la consapevolezza che si esprime attraverso la percezione, ecco, io ho voglia di capire che ce ne facciamo di questo 98%. Quindi ho girato qua e là in viaggi metaforici e non, ho girato molto anche per il pianeta, ho cambiato molte abitazioni, ho vissuto, mi piace dire, 4 vite in questa, per cui non ho bisogno di credere alla reincarnazione perché la sto vivendo, questa è la mia quarta vita, no? E quindi dall'alto tutto ciò, questo vasto campo, è più facilmente perlustrabile. Affidare al vento per i motivi da trovare a pelle. Non so se è la prima vita quella in cui hai contribuito a cambiare il volto della musica italiana. La seconda. Eri un ragazzino, il nome Stormy Six è un nome, sì, leggendario. Io facevo il bassista di quella band, degli Stormy Six, ad onor del vero prima che gli Stormy Six diventassero quella band storica che ha attraversato parecchi anni nell'impegno a sostegno con la loro musica di quello che allora si chiamava il movimento. Io ero negli Stormy Six prima edizione, eravamo un gruppo, avevo 16 anni Ero il bassista di un gruppo di liceali, studenti milanesi, post-beat, proto-psichedelici, che sono entrati per la prima volta in sala di incisione a fare un long playing nel 1968. Il leader storico dei Stormy Sick era, ed è sempre stato, ed è ancora Franco Fabbri, e lui ha scritto sempre metà delle canzoni e l'altra metà le scrivevo io, poi col vezzo della McCartney-Lennon firmavamo sempre insieme. E comunque ecco, quegli Stormy Six a prima maniera. Poi ho iniziato ad andare per conto mio, mentre loro prendevano derive di deciso impegno sociale e politico, io prendevo umilmente la rincorsa nella speranza di spiccare il volo. Infatti uno dei miei primi dischi, il più fortunato storicamente, nel 1971, si chiama e si chiamava Volo Magico. E recentemente è stato ristampato? Sì, è stato ristampato un paio di volte recentemente, con grande fortuna, a segno e a riprova che quel periodo storico, quel tipo di declinazioni nella sensibilità di larghe masse giovanili, che adesso sono cinquantenni e sessantenni, che avevano vent'anni allora, in qualche modo ha lasciato tracce, ma ha lasciato tracce nel senso che era naturalmente condiviso in quel momento una forte spinta ideale, il desiderio di cercare la certezza magari ingenua. Sai, ti ricordi Abby Hoffman, uno dei leader della controcultura americana, diceva: eravamo giovani, eravamo stupidi, eravamo ingenui, ma avevamo ragione, no? Ecco, questo era lo spirito di quegli anni, i famosi 70s, che per me vanno dal 63 al 73, il vero decennio in cui è successo tutto quello che è successo in quel decennio, era dal 63 al 73. Eccolo qui quel figlio, quel padre, quell'amore. Adesso vive sotto la montagna. Eccolo qui quel tipo che per andare a far la spesa avevamo ragione, pensavamo di cambiare il mondo, pensavamo di cambiare il mondo attraverso la musica, posso immaginare. La musica lo cambia il mondo? Beh, la musica sostiene l'esperienza e spesso salva la vita. Io posso testimoniare di varie fasi della mia vita, tra l'altro ne ho vissute quattro. Per inciso, tu dicevi se era nella prima che ho contribuito a portare qualche nuova istanza nei linguaggi della musica italiana. Era la seconda, perché la prima è quella da studente, da quando sono nato a 15 anni. La seconda dai 15 ai 29, aspirante pop star. Nella terza, dai 29 ai 44, aspirante santo di professione induista, ho preso i voti e ho fatto il monaco. E nella quarta, che sto ancora vivendo, dai 44 in avanti, rientrato bellamente come se niente fosse nel mondo dopo 15 anni di monachesimo, a riprendere a fare musica, radio, comunicazione, tentando di raccontare, a me piace definirmi postino, di recapitare qualche informazione raccolta qua e là in tutti questi viaggi. Io ho questo vezzo che quanto più un artista è difficilmente definibile, tanto più è stimabile dal mio punto di vista. Non parlo di me, ma parlo di altri. Io credo che non ci sia nulla di peggio per un artista di dire: fa musica tipo un altro, un altro, un altro, un altro, ricorda quello, quell'altro, quell'altro. Io, bontà loro di chi ha voluto definirmi così, sono storicizzato bene o male come un unico, praticamente, o tra i pochissimi esponenti di un rock psichedelico di songwriting di stampo cantautorale italiano. A questa definizione aggiungo negli ultimi anni una decisa maturazione tecnica proprio nell'uso delle tecnologie digitali, per cui a questa forma canzone strutturalmente rock, classicamente intesa con strumenti elettroacustici come basso, batteria, chitarra acustica, elettrica, voci, armonie vocali, tastiere, cose così, ho aggiunto qua e là molta elettronica. Un'elettronica però, così io la definisco impressionista, che qua e là, al posto magari di aspettarsi al momento di un assolo, l'uscita di una chitarra che fa un assolo o di un saxo, che escono dei materiali sonori che rotolano con i loro suoni, ad aprire, io dico, attraverso la percezione, che è lo strumento della coscienza, si spera e auspico, delle esperienze di percezione e di ascolto che ci aiutino nell'assunto psichedelico per antonomasia ad espandere la coscienza. Faccio un miracolo, faccio un miracolo. Thank you. Ho un'ultima domanda, traccia numero 3, facci un miracolo, ma chi lo chiedi questo miracolo? Ecco, bella, è una preghiera laica. Io quando l'ho scritta avevo diversi interlocutori ideali in mente, uno era il presidente del consiglio, l'altro era il mio vicino di casa con il quale ho un rapporto conflittuale, vivo in Sardegna, in campagna, ciò nonostante riesco ad avere dei rapporti conflittuali. E io, poi la canzone si spiega da solo quali sono i miracoli che io chiedo, ma in sostanza io chiedo un telegiornale senza cronaca nera, senza potenti corrotti, senza ladri perfetti, senza storie di sfratti, un attimo di tregua senza fare finta, senza esagerare, senza pretendere da noi, io dico, un colore, quindi un appartenere da qualche parte, soprattutto senza inquinare il mare, tragicamente d'attualità col disastro di navigazione di questi giorni. Ecco, i miracoli di avere una quotidianità alleggerita da tutte queste zavorre che, come risultato, no, io dico, appesantiscono la coscienza, la tirano in basso, no? Perché nei linguaggi delle filosofie, delle psicologie del profondo orientali, uno stato d'animo leggero è alto, è sintomo di coscienza alta, uno stato d'animo depresso, chiuso, spaventato, introverso, è segno di una coscienza bassa. Ecco, io sono decisamente per l'alto. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno via Twitter, seguendo il mio account @MartaCagnola o con l'hashtag cancelletto 140 caratteri. Ci ritroviamo domenica prossima.